Io la farei. Strano come le ciglia appiccicate di un bimbo latino neonato, come i gabbiani che corrono in formazione a filo della Moldava, come le castagne selvatiche che in Perù pare siano più buone, come la luce al crepuscolo dona forme d'ombre al viso sonnambulo e un po' vampiro, come il corpo di uno stronzo beone abbandonato sotto la cassapanca di una latrina in disuso, come le miglia smisurate del Tennessee, fottute, come lo stagno alle oche sotto casa dei miei, le fragole nei campi di Tese nella primavera di 40 anni fa, come i cieli di Kabul sotto bombardamento fieri, come la fioca luce d'un tugurio in cui una donna rovinata fa leggiare stonate nene nell'aria, come Marco che legge in inglese racconti brevi di un morfinomane francese, così sono anch'io, povera te.